Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas. Capitolo secondo, parte prima. Perché è imprudente per un falegname avere una bella moglie? Eugène Dieudonné era un giovane posato e lavoratore. Tutta Nancy era unanime nel giudizio. Gli si conoscevano solo amici e nessuno avrebbe potuto pensare che un giorno sarebbe diventato il complice di Bonneau. Sua madre ha la responsabilità di aver inculcato con troppa dolcezza nei tre figli principi pericolosi come il senso dell'onore, la rettitudine, la probità, la generosità. Il padre era morto troppo presto per insegnar loro che è bene sapere anche abbassare la testa di fronte alla forza. Apprendista falegname, a 13 anni, aveva già uno sguardo limpido e netto, con cui squadrava nel giorno di paga il padrone che lo derubava di qualche soldo. A 18 anni partecipò al suo primo sciopero. Una compagnia di fanteria ristabilì l'ordine. Il suo miglior amico cadde lì accanto a lui, il petto sfondato dal calcio di un fucile. Eugene non era certo un intellettuale. Coi polpastrelli callosi sapeva riconoscere un buon legno. Col bedano, con lo scalpello e con la sgorbia sapeva sgrossarlo, modellarlo, lavorava soprattutto d'istinto, oltre a saper fare il suo mestiere. Affrontava il lavoro con lealtà, era leale con la famiglia, i vicini, il padrone, perché la società non lo era con lui? Sua madre lo aveva forse allevato perché restasse passivo davanti ai fucili? Era normale che avesse sgobbato tutta la vita solo per avere il diritto di morire in miseria? La sera della sommossa non aprì bocca per tutto il pasto, piegò il tovagliolo e uscì. La madre non osò chiedergli dove andasse. Lo sapeva anche troppo bene. Era riuscita, fino a quel momento, a trattenerlo, facendo appello al suo buon cuore. Ma viene il momento in cui i ragazzi diventano uomini, vanno meno in chiesa e più spesso alle riunioni, da cui sono escluse le donne, e alle madri non resta che stare ad attendere i figli come per tutta la vita hanno atteso il marito, cercando di sorridere e pregando la Vergine che non gli succeda una disgrazia. Di ritorno a mezzanotte Eugene stentò ad addormentarsi. Si agitava senza pace nel letto a forma di barca che si era fabbricato con le sue mani, copiando un modello ritagliato da una rivista. Rifletteva ciò che aveva inteso da Charles Bill nella mansarda piena di fumo alle idee che erano state dibattute in modo non sempre comprensibile per lui. Naturalmente si era parlato male delle monache e dei preti e si era parlato di donne con leggerezza, ma dopo tutto era come perdere la verginità. Non si può restare eternamente fra le gonne della mamma. I cospiratori erano tutti amici, fabbri o falegnami come lui, assillati dai suoi stessi problemi. Tra di loro Charles Bill faceva un po' la parte del maestro, aveva letto molto più di loro, aveva il dono di rendervi chiare le cose più complicate, conosceva l'arte di convincere. E poi quei vocaboli nuovi, anarcosindacalismo, libertario, individualista, pensiero scientifico, quei nomi sconosciuti, Élisée Reclus, Bakunin, Kropotkin, formavano un vocabolario esaltante, entrò nell'anarchia come altri in una religione. Da allora ogni volta ci fosse una riunione, una manifestazione, uno sciopero, Eugene era presente. La sera si portava a casa libri e giornali e si rovinava gli occhi a leggerli, tormentandosi le grosse mani disoccupate. La sua educazione iniziava. Scoprì dapprima con stupore che il suo quartiere, il suo laboratorio, il suo sciopero, la sua città non erano casi eccezionali. L'odio improvviso che aveva sentito l'altro giorno contro quei borghesi che si rintanavano nel fondo delle loro case mentre mandano la truppa all'assalto era comune a centinaia di migliaia di giovani in quello stesso istante. ognuno reagiva a modo suo, con mitezza o brutalità, ma erano tutti fratelli. Lui aveva la fortuna di lavorare solo 12 ore al giorno e di avere la domenica libera. Non c'erano leggi a garantirlo. C'era chi faceva anche 15 ore al giorno. I salari delle donne erano automaticamente dimezzati. Non parliamo poi di vacanze. Chi le conosceva? Nessuna garanzia in caso di malattia, di parto o di disgrazia. Nessuna pensione per i vecchi. Così gli scioperi, che prendevano le mosse da precise rivendicazioni, si concludevano regolarmente con esplosioni di collera. Nessuno, a dire il vero, si era ripreso dall'orrore della comune. 35.000 arresti, 13.000 condannati, di cui 7.000 spediti alla Guyana. Un turismo di classe che avrebbe fatto anche lui più tardi, per 18 anni. 20.000 morti, la maggior parte fucilati, un bel salasso. I capi erano stati decimati o se ne stavano in silenzio. Quanto ai possidenti, quel macello li aveva convinti del fatto che Thiers aveva avuto perfettamente ragione a stroncare la plebaglia. Niente di meglio per vivere tranquilli. Date ai poveri il mignolo, vi strapperanno la mano, poi il braccio e alla fine diverrete loro. La novità che rovinava ogni cosa era l'industria, le miniere, le ferrovie, le fabbriche. Il padrone aveva ormai troppi impiegati e troppe preoccupazioni sui dividendi. Le novità tecniche, la concorrenza e i cappelli di Madame per preoccuparsi dei destini individuali. Nel solo 1893 Dieudonné aveva 8 anni. C'erano stati 643 scioperi. «Prendi, ecco un buon libro», disse una sera Charles a Eugene. «Mi dirai che cosa ne pensi». Era Germinal, di uno scrittore dei loro, un certo Zola. Eugene pianse, leggendo il racconto dello sciopero dei minatori a Montsou, nel nord. La collera, la fame, quei 2 mesi di sofferenze e quel rabbioso fuggi-fuggi attraverso i cunicoli avevano allungato in mascelle di bestie selvagge i placidi volti dei minatori di Montsou. In quel momento il sole tramontava, gli ultimi raggi di porpora scura insanguinano la pianura. Allora la strada sembrò traboccare di sangue. Le donne, gli uomini continuavano a correre, sanguinando come macellai in piena strage. Erano la rossa visione della rivoluzione che li avrebbe trascinati tutti fatalmente in una sera sanguinosa di questo fine secolo. Sì, una sera il popolo, scatenato, sarebbe corso così per le strade e avrebbe grondato del sangue dei borghesi, avrebbe portato in giro i loro capi mozzi, seminando l'oro dei forzieri sventrati. «Siamo 6 milioni di operai, capisci ora?» commentò Charles l'indomani. «Non ci concedono alcun diritto, dunque dobbiamo prenderceli da noi». La legge ci è contro, dunque bisogna cambiarla, bisogna cambiare la società. Ma la democrazia, ci sono dei deputati, non possono far nulla. Sono tutti venduti, esclamò Bill, i socialisti come gli altri. Ti fanno belle promesse per essere eletti e quando sono al potere fanno sparare sulla folla. E preso un giornale che aveva lì accanto, declamò per il suo allievo la dichiarazione fatta da Zodaxa agli elettori. Cittadini, vi si inganna, vi si dice che l'ultima camera composta di imbecilli e di furfanti non rappresentava la maggioranza degli elettori. È falso, una camera di deputati sciocchi e imbroglioni rappresenta invece a meraviglia voi elettori. Non protestate, una nazione ha i rappresentanti che si merita. Perché li avete eletti? Tra di voi convenite tutti che più le cose cambiano e più rimangono le stesse, che i vostri eletti si ridono di voi e pensano solo ai loro interessi, alla loro miserabile gloria o al denaro. Perché dovreste rieleggerli domani? La giustizia è uguale per tutti. Gli onorevoli azionisti del canale di Panama vivono da gran signori, ma le manette stringono i polsi dei vecchi operai malati che sono arrestati come vagabondi. Ce n'è che invocano la rivoluzione e costoro si ingannano, ingannandovi. Non saranno mai gli elettori a fare la rivoluzione. Il suffragio universale è lì apposta per impedire l'azione individuale. Ai piccoli borghesi piccolo risparmio, poca speranza, piccoli commercianti rapaci, greve plebe ammansita. Occorre un Parlamento mediocre che amministri e sintetizzi tutta la bassezza nazionale. Fate la Camera a vostra immagine, il cane fa ritorno al suo vomito, voi ai vostri deputati. Eugene era sconvolto. Ma allora che cosa si può fare? La rivoluzione, ruggì Charles. Non quella dei marxisti, che porterebbe solo a sostituire la dittatura dello Stato borghese con quella del proletariato, che è ancora peggio. Non quella della CGT, non quella di Griffwell, né quella di Jules Guesde. Anzitutto è per l'anno 2000. E poi bisogna intendersi sui fini. Loro si battono perché tutti abbiano lavoro, reclamano dai borghesi le catene con cui farsi imprigionare. Noi non vogliamo più sfruttamento dell'uomo sull'uomo, non vogliamo più essere asserviti allo Stato, di qualsiasi tipo esso sia. Vogliamo la rivoluzione subito per la libertà, perché finisca questo mondo imputridito. Si lanciò quindi in una descrizione della società anarchica teorizzata da Proudhon, Stirner e Bakunin. In bocca sua diventava un mondo idilliaco, in cui ciascuno si sviluppava armoniosamente secondo i suoi gusti, dedicandosi al lavoro che prediligeva, in un'immensa fraternità mondiale. Quando Eugene si ritrovò alla tavola familiare, era radioso, gli occhi gli lampeggiavano, cercò di comunicare alla madre e ai fratelli la grande speranza che era sorta in lui. «Povero piccolo», disse la madre, scuotendo la testa, «tutto questo finirà male». Aveva sentito il padre di Eugene raccontare di tanti massacri, esplosioni, morti. Le voci di tanti avvenimenti erano giunte assordanti sino a lei. E che cos'era cambiato? I tribunali avevano sempre ragione contro chi non rispettava la legge. «Ma insomma, mamma», esclamò Eugene incollerito, «non ti rendi conto? Hanno tutto dalla loro, il governo, la giustizia, la polizia, l'esercito, l'oro, tutto». E tutto questo sulle nostre spalle. Bisogna pure spaventarli per farli cadere. Forse, mormorò la brava donna, ma l'importante è fare economie. Alla fine, quando hai ben lavorato, puoi metterti per conto tuo. Era quello che voleva fare il tuo povero padre. Eugene uscì sbattendo la porta. Con le donne non si poteva discutere. Era per colpa delle persone rassegnate, come lei, che era così difficile agire. Sua madre, senza saperlo, era complice della società, era colpevole, e con lei la stragrande maggioranza dei lavoratori, come un qualsiasi sfruttatore. Soltanto 830.000 iscritti ai sindacati su 6 milioni di operai, una vergogna. Nei mesi successivi Eugene imparò i nomi dei martiri dell'anarchia, scoprì in che ciclo infernale di violenza viveva la Francia da 20 anni. Da una parte i borghesi, che vivono nel terrore della grande sera, e soprattutto alla vigilia del 1° maggio, dall'altra esplosioni di collera, collettiva o individuale, rapidamente e brutalmente soffocate. 1° maggio 1890, barricate e saccheggi a Vienna, arresti in massa. 1° maggio 1891, un certo De Camps lancia un proclama. «Cittadini, cittadine, armatevi tutti il 1° maggio di fucili, zappe, pistole, in modo che in quel giorno, se bisogna versare sangue, ci possiamo difendere fino alla morte. Quel che vi chiedo è che nessuno si tiri indietro. Se gli agenti di polizia vi si parano davanti, non bisogna aver paura di ucciderli come cani, come le vacche che sono». Gli si obbedì. Un pugno di agitatori portò in giro per le vie di Clichy una bandiera rossa, i gendarmi caricarono, i ribelli spararono revolverate, la polizia a cavallo sciabolò la folla. Eugene tremava di orrore. Volle comunque ancora una volta cercare di spiegare a sua madre la necessità della rivoluzione. «Ti montano la testa, povero ragazzo», replicò quella dolcemente. «I ricchi non sono tutti così cattivi, tra di loro ce ne sono molti che fanno del bene». Fu l'ultima conversazione seria tra di loro. Gli veniva la pelle d'oca, gli si rizzavano i capelli, all'idea che sua madre trovasse normale avere l'elemosina di qualche camicia da stirare. malgrado lei, contro di lei, combatteva ormai in silenzio, si immerse con maggiore ostinazione nella cronaca delle rivolte abortite. 1892, 11 marzo, Ravachol, operaio di tintoria, poi metallurgico, orfano di padre, anarchico per disperazione, mette una bomba sul pianerottolo del giudice che lo ha condannato. De Camps, 15 giorni dopo, lo rifà. Viene preso il 26, vigilia del suo processo, malgrado una formidabile protezione della polizia, il ristorante Veri, in cui lavorava una spia, salta in aria. Il 28, la Père Peinard pubblica. Razzie anarchiche in tutta la Francia, in vista del processo Ravachol e del 1 maggio. Il 26 sera, il ristorante Veri salta come una merda. Di qui una nuova parola, verificazione. Ravachol, marciando verso la ghigliottina, canta: «Se vuoi essere felice, per Dio, impicca il tuo padrone, affetta a mezzo ai preti». 1893, 9 dicembre. Vaillant getta nell'anfiteatro di Palazzo Borbone in piena seduta una bomba a chiodi, piuttosto innocua. Alcuni deputati sono feriti. Il pur reazionario Drummond si lamenta della scarsa efficacia del gesto. Se fosse caduta sul banco dei ministri, la bomba avrebbe colpito solo dei criminali che nessuno avrebbe compianto. Prima che la sua testa cada nel paniere di crusca, Vaillant urla: «Morte alla società borghese, viva l'anarchia!» 1894, 12 febbraio. Émile Henry lancia una bomba infernale al caffè Terminus alle 9 di sera. «Ho voluto, dice, colpire la massa pretenziosa e idiota degli impiegati a 300 o 500 franchi al mese, più reazionari dei loro padroni borghesi. Sono lieto di quel che ho fatto, ne sono contento e fiero. Anche lui è ghigliottinato, ma non prima di aver letto questa dichiarazione al processo. Nella guerra da noi dichiarata alla borghesia non chiediamo pietà, diamo la morte e sappiamo subirla. Per questo attendo con indifferenza il vostro verdetto. So che la mia testa non sarà l'ultima che taglierete. Aggiungerete altri nomi alla lista sanguinosa dei nostri morti, impiccati a Chicago, decapitati in Germania, garrotati a Xeres, fucilati a Barcellona, ghigliottinati a Montbrison e a Parigi. I nostri morti sono numerosi, ma voi non siete riusciti a distruggere l'anarchia. Le sue radici sono profonde. Essa è nata nel seno di una società putrefatta e vicina alla sua fine. Essa è una violenta reazione all'ordine stabilito. Essa rappresenta le aspirazioni di uguaglianza e di libertà che distruggono l'attuale autoritarismo. Essa è dovunque. Questo la rende indomabile, per questo finirà con l'uccidervi. Eugene fremeva al racconto delle loro imprese. Non approvava che venissero uccisi degli innocenti. Era del resto il solo punto su cui era in disaccordo con Charles. Ma sentiva ribollire in sé una rivolta simile alla loro, un'identica disperazione. Era il fratello di quei giovani arrabbiati che, non avendo più niente da perdere, erano tutti andati al supplizio con lo stesso ardimento, lo stesso sorriso sulle labbra, convinti di aprire la via a un mondo migliore. Quando li si trattava da assassini, rispondevano che praticavano la propaganda con l'azione, cioè con la bomba. Durante l'istruttoria del processo, Henry, il 15 marzo, il belga Powells, è dilaniato dalla bomba che portava alla Madeleine, il 4 aprile. Macchina infernale e ristorante Foyot. Diverse vittime. Il 24 giugno, Caserio, un giovane italiano calmo e cortese, pugnala in Avenue de la République a Lione il presidente Sardi Carnot. È allora che i deputati, la schiena madida e sudore, votano le leggi scellerate. I borghesi davano un giro di vite, si attribuivano ormai il diritto di perquisire, di arrestare a piacere, di giudicare a porte chiuse, di proibire i giornali. Se Eugene non era d'accordo con la propaganda, con l'azione, non era perché ritenesse cattiva la strategia. Non aveva opinioni al riguardo e non trovava niente da rispondere a Charles, che era persuaso che fosse quello il solo modo per scuotere l'opinione pubblica e terrorizzare gli oppressori. Semplicemente non si vedeva nell'atto di mettere una bomba in un caffè, col rischio di uccidere un amico. «Sei vittima della tua educazione cattolica», diceva allora Charles. «Sei come gli altri, pieghi la schiena». «Può darsi», gli rispondeva con la sua ostinazione di lorenese. «La società ci truffa, accetto». «La società ci truffa, accetto il solo modo di discutere che essa ci lascia, ma uccidere dei poveri diavoli come noi, questo no». Allora Charles aveva buon gioco a mostrargli come fosse marcia la società francese. Mentre si predicava loro la sottomissione, virtù cattolica, il risparmio, virtù borghese, l'ordine morale, virtù sociale, gli scandali fiorivano uno dopo l'altro da 20 anni, come grosse bolle alla superficie di un pantano, in cui i coccodrilli stessero disputandosi le gambe di un annegato. Eugene, d'animo semplice, faticava a credere che fosse vero. Nel 1887, ad esempio, si era scoperto che Daniel Wilson, genero del presidente Grévy, alloggiato all'Eliseo, approfittava delle confidenze del suocero per fare fruttare operazioni di borsa. Della sua amicizia per mercanteggiare la testa dei condannati a morte e decidere impieghi e promozioni di funzionari e, l'affare più redditizio, distribuire a tariffa standard legioni d'onore a valanghe. Il più bello era che il signor Genero era stato assolto in appello e rieletto deputato nel 1893. Nel 1892 c'era stato lo scandalo di Panama. Eugene apprese, quella volta, che quasi tutti i giornalisti, i politicanti, i banchieri, gli affaristi erano delle canaglie. Ne dubitava già, certo, ma la camorra organizzata attorno a Delesseps per strappare i soldi ai risparmiatori col pretesto del canale e intascarseli superava ogni immaginazione. 104 deputati venali, molti ministri e un presidente del Consiglio compromessi. Un banchiere onnipotente fino a ieri festeggiato dal Tout Paris che si suicida, tutta la stampa che lavora a pagamento dal Gaulois al Petit Journal, passando per la France, la Semaine Financière o le Temps, non era cosa da poco. Eugene invidiava in certi momenti l'ignoranza di sua madre. La fortuna inestimabile di essere analfabeta le permetteva di non vedere la cloaca in cui sguazzavano tutti, malgrado loro. Altre volte si irritava con lei, per Dreyfus, ad esempio, il capitano ebreo accusato di spionaggio a favore della Germania. Ebbene, malgrado la recente riabilitazione, lei credeva ancora alla sua colpevolezza perché il signor curato l'aveva detto e ripetuto dal pulpito. Roba da far venire la voglia di sparare. A che scopo aver preso la Bastiglia se 100 anni dopo la libertà, l'uguaglianza e la fraternità dovevano diventare parole prive di senso? Perché la Francia diventasse il paradiso dei truffatori e dei falsari? Non c'era dubbio, infatti, la sacra unione della sciapola e dell'aspersorio contro il meteco saltava agli occhi in quell'affare, con ben inteso il rinforzo delle truppe parlamentari al completo, boulangisti, realisti, antisemiti, moderati, radicali. I socialisti restavano neutrali e si rifiutavano di interessarsi alla sorte di un gallonato borghese milionario. E in più l'appoggio della stampa, le Petit Journal, col suo milione di lettori, l'intransigente di Roquefort, che pure era ex comunardo, le Gaulois di Arthur Bayer, un ebreo, le Libre Parole di Daumont, un antisemita, l'Esclair, la Gazette de France di Maurras, l'autorité bonapartista di Cassagnac, con dietro di sé tutta l'opinione pubblica francese, patriottarga e revanchista, della parola d'ordine di morte ai traditori. Falsità, menzogne, calunnie, ricatto. Si era fatto di ogni erba un fascio per difendere la buona causa, quella della patria, l'onore dell'esercito. Dreyfus condannato in perfetta illegalità, era stato spedito alla Guyana a meditare sull'imprudenza di essere innocente, come per Eugene avverrà più tardi. Esterhazy, uno dei veri colpevoli, era stato assolto all'unanimità, acclamato, festeggiato. Zola condannato. Dopo una prima revisione del processo a Rennes nel 1899, che aveva nuovamente condannato Dreyfus, si era dovuto attendere il 1904 perché la verità esplodesse. 10 anni per raggiungere questo risultato. Non c'era di che turbare il cervello del più placido degli abitanti di Nancy? Eugene aveva deciso: i padroni sfruttano i lavoratori, come generali i popoli colonizzati, l'esercito mente, saccheggia, massacra, il clero vende le indulgenze al maggiore offerente, posti a sedere alla destra del Signore, la banca truffa, la grande stampa è implicata in tutti i più loschi affari, il regime è marcio e il popolo batte le mani. All'incirca in quel periodo Dieudonné fu dichiarato abile per il servizio militare. L'amico Charles Bill gli consegnò subito un piccolo opuscolo di cui si tiravano allora migliaia di copie, intitolato Il manuale del soldato. Lo lesse coscienziosamente. Terminava così: se credete di non poter sopportare le vessazioni, gli insulti, le idiozie, le punizioni e tutte le turpitudini che vi attendono in caserma, disertate. È meglio che servire di divertimento a borghesi alcolizzati e pazzi furiosi che si prenderebbero cura di voi nelle prigioni militari. Se credete che non sia possibile far propaganda di rivolta in caserma, se credete che questa propaganda non valga i rischi che si corrono a farla, disertate. Ma se l'effetto di chi sta accanto, se il timore dell'ignoto, di tutto quello che può attendervi come noia e miseria in un paese di cui non conoscete né i costumi né la lingua, se altre ragioni ancora prevalgono sul vostro orrore del reggimento, andateci, ma fate il possibile per restare un uomo. Eugene non disertò. Avrebbe troppo angosciato sua madre, che stava diventando vecchia. Non fu mandato in Africa. Fece tutta la propaganda che poté, fece la parte dell'idiota con i superiori, passò la metà del tempo in prigione, fallì in un tentativo di ammutinamento della caserma, ne scampò col beneficio del dubbio e rimase un uomo. Fu liberato nel 1907. Clemenceau, il famoso affossatore di ministeri, aveva preso il potere. L'uomo che all'opposizione aveva denunciato i massacri compiuti dall'esercito in Africa e in Asia, l'uomo che aveva raccomandato la obiezione di coscienza e perorato per una politica sociale, cominciava a rivelare la sua anima di primo poliziotto di Francia. Pozze di sangue ovunque, 40.000 uomini dell'esercito contro i minatori delle miniere di carbone di Pers de Calais, 477 operai feriti e 15 uccisi in seguito a uno sciopero a Travail, 200 feriti e 6 morti in occasione di un altro sciopero a Villeneuve-Saint-Georges. Arresto illegale dei capi sindacalisti, proibizione agli impiegati postali e agli insegnanti di iscriversi alla CGT, guerre di conquista in Marocco per proteggere gli interessi comuni di Krupp e Schneider. Non andava tanto per il sottile. Il gruppo di sinistra che è al potere, Charles sogghignava. Viva la reazione, almeno uno sa come regolarsi. Per una volta Eugene stava ascoltando distrattamente le perorazioni del suo amico. Aveva tutt'altre idee per il capo. Aveva più volte incrociato una ragazza in Rue de Commanderie, rientrando dal lavoro, una brunetta, bella come un angelo. La prima volta era con degli amici, uno dei quali le aveva rivolto una frase galante, provocando il suo riso, una risata aperta e interminabile. Poi si erano incontrati di nuovo, era arrossita, abbassando gli occhi, quando aveva osato salutarla. In capo a una settimana era diventato una specie di rito, le sorrideva, lei rispondeva qualcosa di appena bisbigliato e scappava via. C'era voluto lo sciopero perché si rivolgessero la parola. Lo riconobbe da una finestra, in mezzo a un gruppo che portava dei cartelli. Poi i gendarmi caricarono. Eugene restò isolato. Si batté alla brava, dando pugni precisi, rapidi. Stava per soccombere al numero, quando un movimento della folla riuscì a salvarlo. Lei aveva seguito la scena, rodendosi le unghie. Il bel falegname di Rue de la Commanderie era un eroe. L'indomani fu lei ad aspettarlo. Iniziarono a conversare senza imbarazzo. 5 minuti. «Arrivederci a domani, alla stessa ora», scappò via ridendo. Una strana ragazza, birichina e selvatica. Non si sapeva se saggia o civetta, in ogni caso carina. Si chiamava Louise Kaiser. Era il più bel nome che avesse mai sentito. Poco tempo dopo ottenne il permesso di farle la corte. La portò al parco Sainte-Marie, alla Pépinière, negli angolini che conosceva. Le parlò delle sue attività di militante, le portò i libri che amava, gliene lesse dei brani. Lo Stato, con la censura, la sorveglianza, la polizia, cerca di ostacolare ogni attività libera e considera questa repressione un suo dovere, perché gli è imposta dall'istinto di conservazione. Il governo dell'uomo sull'uomo è la servitù. Chiunque mi mette le mani addosso per governarmi è un usurpatore e un tiranno. La rivolta permanente con la parola, lo scritto, il pugnale, il fucile, la dinamite. Tutto va bene per noi, tutto fuorché la legalità. Stirner, Proudhon, Kropotkin. Eugene non aveva mai parlato tanto in vita sua. Per la prima volta poteva confidarsi fino in fondo con qualcuno che lo capiva. Louise sembrava bere i suoi discorsi. Aveva 18 anni, trovava che aveva dei begli occhi, baffi affascinanti e braccia molto forti. Si sposarono 6 mesi dopo. In realtà fu subito lei a portare i calzoni. Lui l'amava tanto, la trovava così graziosa che assecondava ogni suo capriccio. Per tutto il tempo in cui rimase incinta la cosa fu normale, ma dopo la nascita di Jeannot l'abitudine era ormai presa. Così, quando si mise a parlare ad ogni piè sospinto di Parigi, lui cominciò a rifletterci seriamente. La Torre Eiffel, l'Arco di Trionfo, la Ville Lumière, le eleganti bellezze dell'Avenue du Bois la facevano sognare. Conservava di nascosto numeri del Journal des Dames et des Demoiselles. Dopotutto, perché no? Avrebbe trovato lavoro a Parigi, come qui. E poi la repressione dei poliziotti di Clemenceau si faceva sempre più brutale. Charles era stato perquisito. Correvano il rischio di essere arrestati da un giorno all'altro. Louise gli saltò al collo quando le comunicò la sua decisione. Aveva buoni motivi per essere contenta. Da tanto tempo preparava il terreno. Eugene disse arrivederci a Charles con gli occhi pieni di lacrime. L'addio con sua madre fu straziante e si partì per la grande spedizione. La sua maggior sorpresa all'arrivo di scoprire una città tagliata in due, da una parte la Parigi opulenta degli Champs-Élysées, di Passy des Grands Boulevards, un territorio straniero, ostile, in cui si sentiva imbarazzato nella sua tuta da falegname, quasi che quando camminava con Louise al braccio facesse una macchia nel paesaggio. Una sensazione che a Nancy non lo aveva mai sfiorato. Si sentiva a suo agio, solo nell'altra parte, dagli spazi periferici e dalle fabbriche di Charonne, di Pantin, dal ponte di Flandre, le alture di Belleville e di Ménilmontant, fino alla frontiera, delle stazioni e sotto i ponti di ferro del metro sopraelevato. Louise trovava tutto bello, ed era un piacere vederla così felice. Passava ore intere nel metro con Jeannot, in braccio, stordita dal rombo delle luci delle stazioni, dai manifesti, dalla sensazione squisita di essersi perduta. Cambiava linea allo Châtelet all'Opéra, vagando senza scopo, con talora la volontà suprema di balzare da terra e volteggiare in pieno cielo, all'altezza del secondo piano degli edifici. Costringeva Eugene a fermarsi in mezzo ai perdigiorno, davanti all'Ercole forsuto, al mangiatore di spade e al disossato, aspettando all'infinito che avessero terminato la questa e cominciassero il numero. Lo trascinava dappertutto, ridendo per un non nulla. Dopo una settimana di esplorazioni, le loro economie cominciarono ad assottigliarsi e Eugene si mise alla ricerca di un lavoro. Lo trovò senza troppa fatica in Rue des Faubourgs Saint-Antoine. Grazie ai buoni attestati e alle raccomandazioni in suo possesso. Fu più difficile trovare una casa. Gli imprenditori avevano costruito molto, dopo il barone Haussmann, ma nei quartieri alti. Altrove bisognava pigiarsi in stamberghe diroccate, niente di nuovo per i poveri da 50 anni, oppure roba troppo cara. Dovettero accontentarsi di uno stambugio nei pressi della Bastiglia. In capo a 3 settimane, risolti tutti questi problemi, Eugene si mise alla ricerca dei compagni parigini di cui Charles gli aveva parlato. Ce n'era soprattutto uno che desiderava avvicinare, un uomo che era una leggenda per tutta la Francia anarchica, il creatore del giornale L'Anarchia, il Papa Storpio degli individualisti, un Socrate sulle stampelle, torso d'atleta, voce di toro e gambe vinte probabilmente dalla poliomielite. Libertad, quel Libertad la cui parola e le cui imprese esaltate dal ricordo dovevano avere così grande influenza sui complici di Bonnot. Seppe che l'Apostolo teneva tutti i lunedì una pubblica conferenza a Montmartre, nella sede sociale dell'Anarchia. Sarebbe stato il modo migliore di riprendere i contatti col movimento. Decise di andarvi. Rassegnata, Louise affidò Jeannot a una vicina, si mise il cappello e lo seguì a piccoli passi per le strade di Parigi, più attenta al baccano delle terrazze in quel dolce crepuscolo della primavera del 1908 che al vaniloquio del marito. Libri ribelli. Libri ribelli.